vestita, già l'uscio mi schiude il canzon, e di già con le rose sue dita, carezze dai fiori lo stuolo. Schiodi l'uscio,